perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E infatti i nostri soldini ci piace tanto metterli nella casa, caro Mauro. Ecco perché il Sole 24 Ore si prende cura di tutti i vari lettori e anche investitori eventi, del settore immobiliare. Certo, perché vendere, comprare, affittare casa è naturalmente l'obiettivo dell'Instant Book che oggi trovate in edicola, ecco, insieme a Sole 24 Ore. E che io vi faccio vedere. E che i nostri utenti esatto, di Facebook già possono vedere. Modello hostess dei ring di pugilato. Bravissima, adesso faccio giro intorno al tavolo. Guarda, con questo tipo di testimonianza, facendo tu da testimone, sono sicuro che le nostre vendite saranno molto te lo dico io, come no, te lo raccomando. Quindi stamattina, ieri abbiamo fatto le quotazioni della casa, come va il mercato nelle varie città italiane. Oggi invece andiamo un po' a tutti gli adempimenti burocratici legati alla compravendita. Abbiamo promesso anche tutte le questioni fiscali e allora abbiamo portato due ospiti, ve li presentiamo subito. Dai, voglio cambiare un po'. Anche perché quando i nostri amici che ci seguono su Facebook e vedono lo studio così affollato si chiedono sin dall'inizio, ma chi ci sarà mai oggi? Quindi presentiamo i nostri ospiti. Ecco, già uno si è rimesso anche in riga, un po' più di postura corretta. Allora, il notaio Arrigo Roveda, che vedete appunto esatto, accanto a Deborah, invece dal lato mio, per chi ci segue su Facebook, c'è il collega Saverio Fossati del Sole 24 Ore. Che ha delle qualifiche specifiche, sì, che tu mi indicavi poco fa. È immobiliarologo, sì, cioè si occupa spesso di immobili e specializzato in condominiologia. Benissimo. Perché, scherzi a parte, è anche colui che si occupa del quotidiano del condominio. Guarda che secondo me se ci fossero queste discipline alle facoltà universitarie direi che sarebbe da indicare ai ragazzi di frequentarle, perché è un settore che è sempre in così tanto frequente cambiamento che bisogna stare al passo con i tempi e magari sono delle belle professioni per il futuro. Ma a proposito di fermenti, cara Deborah, guarda, vogliamo, ce n'è uno stamattina bello intenso. Partiamo. Io mi cuoco in borsa. Allora, ieri vi avevamo preannunciato con il collega Luca Davi del Sole 24 Ore che la Consob proprio ieri mattina aveva dato finalmente il via libera al rientro in negoziazione in borsa dei titoli Banca Monte dei Paschi, sospesi da fine dicembre appunto dello scorso anno. Infatti oggi abbiamo questo debutto e come nelle previsioni il debutto è abbastanza doloroso. L'ultimo prezzo in borsa di Monte dei Paschi nel dicembre dell'anno scorso era stato di 15,08 euro. Stamattina il titolo è partito a 4 euro e qualcosa, poi però è migliorato, adesso è sopra i 5. Ma l'avevamo detto che era un titolo per nervi saldi, ecco, diciamo così. Diciamo che le quotazioni di stamattina riflettono esattamente l'anno di traversie finanziarie vissuto da questa banca. Ma commentiamo un po' questo ritorno in borsa di MPS con Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca Sim, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Un anno quasi di sospensione dalle contrattazioni, lei già ieri è intervenuto anche a Focus Economia per commentare quello che poteva essere questo esordio, tutto come nel copione già scritto, Russo stamattina, il titolo riflette effettivamente quello che c'è stato in questo anno, la ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato e poi la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, il prezzo questa mattina riflette questo anno difficile? Beh, direi proprio di sì, è un esordio adrenalinico di Montepaschi che tra prezzo minimo e prezzo massimo ha già oscillato del 30%, quindi effettivamente è un esordio un po' in linea con l'emotività che questo titolo negli ultimi anni ha davvero provocato. Direi che un prezzo attuale sopra i 5 euro è un prezzo che definirei anche in linea con quelli che sono i multipli della terza banca italiana, che è il Banco BPM, e quindi tutto sommato se oggi rapportiamo la capitalizzazione, quindi un dato di borsa, al patrimonio netto di Montepaschi, un dato di bilancio, questo rapporto è il 50%. È lo stesso rapporto che ha il Banco BPM, quindi in ogni caso ritengo che come prezzo di partenza sia un prezzo che quantomeno possa orientare in modo più tranquillo i risparmiatori. Certo, allora i prossimi appuntamenti importanti per la banca, per azionisti ed obbligazionisti di questa banca, Russo, quali saranno? Perché adesso abbiamo in ballo anche il rimborso di chi ha la titolarità delle obbligazioni subordinate. Beh, questo è un appuntamento molto importante e si stima che 1,5 miliardi di nominale di obbligazioni che hanno diritto al ristoro in un'obbligazione senior parteciperanno e quindi saranno, saranno nuovi obbligazionisti senior della, della società, il che vuol dire che il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze, sarà implicitamente costretto ad acquistare un valore nominale di circa 1,5 miliardi di azioni di Monte Paschi al prezzo di 8,65 euro, che è il prezzo di conversione riservato agli obbligazionisti. Tutto ciò porterà la, il valore medio di carico della partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze vicino ai 7 euro per azione, con una quota di partecipazione al capitale di circa il 68%, quindi sarà l'azionista di maggioranza assoluta di questa banca. Un'altra considerazione la facciamo prima di lasciarla, Russo, magari mettendo a confronto Monte dei Paschi oggi con gli altri competitor italiani. Tutti stanno nella stessa barca perché l'anno prossimo dovranno affrontare le nuove richieste da parte della Banca Centrale Europea di coperture di tutti quelli che potrebbero essere i crediti deteriorati e i paletti della vigilanza sono sempre più alti. La Banca Monte dei Paschi è in grado di affrontare un altro anno difficile di questo tipo, oggi un po' più in salute rispetto al passato? Insomma, qual è anche il biglietto da visita dal punto di vista dei fondamentali economici con cui questa banca si ripresenta al mercato? Ma mi sento di dire che qui c'è un elemento di estremo vantaggio per Banca Monte Paschi Siena ed è un po' paradossale perché è stato, diciamo, il tallone d'Achille di Monte Paschi, quello dei crediti deteriorati, perché Monte Paschi di Siena di fatto nel 2018 sarà l'unica banca in Europa senza sofferenze in bilancio, perché sappiamo che sono state, sono oggetto di cartolarizzazione e di cessione oramai definita, e avrà dei crediti deteriorati residui, ovvero incagli e crediti scaduti, per già svalutati del 72% in bilancio. Paradossalmente diciamo che questo è un elemento che favorirà Monte Paschi nelle valutazioni rispetto a tutti gli altri istituti di credito, con il vantaggio inoltre che essendoci il MEF con un'azionista di maggioranza, Monte Paschi usufruisce delle garanzie pubbliche sulle emissioni obbligazionarie, quindi si potrà finanziare a tassi decisamente più vantaggiosi rispetto alle altre. Quindi direi che questo è un elemento importante da sottolineare e che potrebbe effettivamente far salire quel multiplo che ho citato precedentemente dal 50% verso banche molto più sane, molto ben considerate, come faccio esempio Intesa San Paolo, che ha un multiplo superiore al 100%. Grazie Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca SIM. Adesso possiamo cominciare a parlare di casa. Voglio andare a casa, la casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. Allora, Debora, parliamo di casa, sì, perché come abbiamo già ricordato, il giro del ring. Oh, brava, brava, mostra sempre questo volume che poi sono 80 pagine, esatto, con tutte le indicazioni, le ma novità normative. Ma le ha scritte normative. Tutte Saverio? Buona parte sì, secondo me, o comunque sicuramente le ha lette tutte Saverio, il che dimostra che insomma non è vero che i giornalisti non lavorano, perché sono 80 pagine fitte anche di tabelle, anche per riassumere quali sono i trattamenti fiscali, le varie considerazioni quando si compra, quando si vende, sì, quando questo si è un settore che diciamo ne dà un bel po' di lavoro giornalistico da fare continuamente. E allora, se avete domande su questo tema, ieri già ci avete inviato degli sms, dei whatsapp, vi ricordiamo i numeri 800 24 0024 per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 se volete mandarci sms o whatsapp. Parliamo di norme, fiscalità, tutto quello che può riguardare la casa. Naturalmente possono anche scriverci una mail, vero Debora? Oh, direi che l'indirizzo è sempre quello, consolidatissimo, due di denari, @radio24.it, due scritto, due di UE. No, è scritto non è il numero, non è il numero, ma è scritto giustamente, a lettere. Giustamente, giustamente. Allora, da dove vuoi cominciare, Debora? Ma allora, magari cominciamo con un profilo dei temi che trattiamo questa mattina con Saverio, perché la casa, lo diciamo molto spesso, fa gola al fisco. Ecco perché prima di investire in questo settore oggi gli italiani ci pensano più e più volte, pur essendo uno degli investimenti preferiti. Ma diciamo che l'indeterminatezza della legge rende oggi questo investimento un pochino incerto, Saverio, o no? O un nostro pregiudizio? Non è tanto l'indeterminatezza della legge, cioè è l'indeterminatezza del momento in cui, per esempio, si riesce a riavere la casa se l'inquilino non paga l'affitto. È l'indeterminatezza dell'IMU, anche se ormai l'IMU è una certezza perché è sempre l'aliquota massima. Stiamo parlando di case che vengono messe a reddito, naturalmente, certo, case da comprare la per prima affittare. Casa, diciamo, quella dove si abita, è un capitolo un assolutamente discorso, a parte. Certo. Il che porta poi a considerare considerando anche i tempi medi in cui la casa rimane sfitta e al netto, diciamo, del problema dell'amorosità, se uno prende una casa e, diciamo, la mette a reddito per 8 anni, che è il classico periodo della locazione 4+4, affitto libero, la redditività netta, abbiamo calcolato pagina 53, mediamente in una città grande, in una città media, e senza uso, diciamo, in linea di massima è il 2%, stringi stringi, ecco, quindi 2% netto, che non è disprezzabile rispetto a quello, no, che gira sul mercato finanziario. Ne abbiamo parlato anche ieri, Mauro, quando l'ascoltatrice ci ha raccontato di quella possibilità di fare un investimento in una località turistica con l'agenzia che voleva mediare questa operazione promettendo un rendimento annuale del 10%. Addirittura si sbilanciava a dire che lo garantiva. Esatto. E questo, diciamo, abbiamo già avuto modo di dire che il verbo era davvero scelto, è abusato con poca cautela. Il verbo garantire. Ma no, e questo perché è molto difficile? Beh, perché o uno compra una casa, ma no, è praticamente un 10%, è assolutamente impossibile, no, è impensabile. Quello, un rendimento realistico in una città grande, in una città media, è appunto il 2% netto, sempre che diciamo non ci siano morosità, sempre che vada tutto abbastanza liscio. Abbiamo fatto anche un altro calcolo che è sempre qui su questa guida che è in vendita oggi insieme a Solo 24 Ore con 50 centesimi in più, che partiva dal presupposto che uno avesse comprato la casa da mettere a reddito, cioè da affittare, ma l'affittasse col canone concordato. In questo caso avrebbe potuto beneficiare di una detrazione dall'IRPEF consistente sul prezzo d'acquisto. Ora, anche in questo caso la redditività è molto bassa. Perché? Perché il canone concordato nelle grandi città è molto più basso del canone di mercato, e quindi, facendo l'esempio su Milano, scendiamo addirittura all'1,87%, mentre nelle città medie il canone concordato è molto più vicino al canone di mercato, e quindi si arriva a Palermo, per esempio, a 2,76%. Quindi, quando si fa la scelta di comprare la casa con lo sconto IRPEF sull'acquisto da mettere a reddito a canone concordato, conviene solo nelle città medio-piccole, dove il canone concordato è quasi uguale a quello di mercato. Quando invece si compra così, senza questa opzione, e si mette a reddito sia in una città grande che in una città media, più o meno la redditività uguale e siamo intorno al 2%. 2% con quei rischi e problemi, ma neanche se me ne regalano una, scrive un ascoltatore. Lo so, ha ragione, perché poi bisogna tenere conto del fatto che io ho calcolato anche le spese condominiali. Il botta d'un anno è sotto zero da un bel po', vorrei dire anche. No, appunto, certo. C'è lo stress della gestione della locazione. Vabbè. Cioè ti devi andare a trovare con l'anternino l'inquilino che rompe le scatole, che si trova una casa, oggettivamente deve essere una casa ben sistemata, insomma, con tutte le cose, gli impianti perfettamente funzionanti, ben tinteggiata, e soprattutto l'inquilino come si deve. Questo è fondamentale, altrimenti diventa un'angoscia che dura 8 anni. Andiamo alla compravendita, sì, Mauro. Sì, perché vedo che già qui si affollano le richieste di informazioni. Ma quale regime fiscale tocca a chi ha una moglie che vuole comprare una casa all'estero perché è originaria di quel paese? Oppure un'altra domanda che dice: ho comprato la casa 3 anni fa, la prima casa, vorrei prenderne un'altra, farla diventare la prima. Allora, innanzitutto vi dico, in questo volumetto che trovate oggi c'è anche uno specchietto, ce ne sono diversi, che vi riassumono le imposte nei vari casi, vendita, acquisto e così via, se comprate dall'impresa, se comprate dal privato, perché altrimenti diciamo che tutta la puntata andrebbe solo per spiegare gli infiniti rivoli del fisco. Però chiamando in causa già il notaio Roveda, una delle cose che sono sempre chiarite successivamente dall'Agenzia delle Entrate è questo cambio di prima casa. Ho la prima casa ma voglio cambiarla, ne prendo un'altra, allora quanto tempo ho, quante imposte devo pagare, eccetera eccetera. Notaio, come possiamo riassumere le infinite risoluzioni e indicazioni dell'agenzia? Per prima cosa, facendo chiarezza sul fatto che se si parla di imposta di registro o se si parla di IMU, perché i presupposti sono profondamente differenti. Se si parla di imposta di registro e ho già una prima casa, io ho la possibilità di vendere la prima casa e ricomprarne un'altra, e in questo caso sommo le due agevolazioni ed anzi ho un credito d'imposta da scontare sul secondo acquisto, oppure posso comprare la seconda casa dichiarando che sarà la mia prima, ma mi devo impegnare a vendere entro un anno la vecchia prima casa. Se non raggiungo l'obiettivo, decado delle agevolazioni sul secondo acquisto con una sopratassa del 30%, quindi bisogna avere un po' di cautela. Infatti questo era anche l'argomento di Alessandro, che ci chiama da Torino. Alessandro, buongiorno, abbiamo già risposto? Sì, avete già risposto. Quindi se uno ha la parcheggio certe cose della residenza, bisogna passare degli anni per poter comprare un'altra casa, tenendosi la prima, e per risparmiare sulle tasse di registro, saltare, diciamo, sulla seconda casa e farla diventare prima casa. Invece non si può, bisogna vendere quella che è la prima casa, insomma. Sì, impegnarsi a venderla. Ecco. Va bene. Ha un anno di tempo, è corretto. No, ma io voglio mettere, no, ma era solo una speculazione la mia, perché io lo faccio per mettere a reddito le case. Certo, e allora ha sentito anche i consigli di Saverio, che appunto indicava quanto la redditività vera, cioè reale, può essere. Consideriamo anche molto brevemente il discorso della plusvalenza IRPEF, cioè bisogna stare attenti a non venderla prima dei 5 anni. Perché se no altrimenti si paga l'IRPEF sulla plusvalenza, nel caso appunto si guadagni qualcosa. Certo che è uno slalom, veramente. Bisogna stare attenti a un sacco di cose, perché il fisco ha messo, cioè, parliamoci chiaro, l'agevolazione serve alle persone che vanno a abitare in casa loro con la loro famiglia. Cioè, non serve a fare le speculazioni, serve a continuare a fare la compravendita per vedere un po' di guadagnarci. Infatti ti ricorderai, questo è lo scopo della legge. Ti ricorderai, Deborah, che proprio venerdì a C'è Imposta per Te presentavamo il caso che era sull'Esperto Risponde di colui che aveva una casa a Londra, quindi all'estero, si domandava: ma se la vendo prima dei 5 anni mi calcolate la plusvalenza? Ohimè, certo, esatto, te la calcolano. Anche se te la sei voluta comprare là in piena Brexit, questo non c'entra niente con il fisco italiano, non c'è ragione. Facciamo in tempo a sentire Raffaele da Savona. Sì. Buongiorno Raffaele. Buongiorno signore, scusate se vi chiedo una informazione. Sì. Io sono un ex dipendente dello Stato, sono stato trasferito per lavoro praticamente dalla provincia di Napoli alla provincia di Savona. Io non voglio fare nessuna speculazione, voglio pagare e pago le tasse. Ripeto, io sono stato trasferito e ho ereditato la casa di mio padre, della mia famiglia. E per ragione di lavoro, adesso sono qua pensionato, sono ad Alassio, mi fanno pagare la seconda casa, mi fanno pagare come la seconda casa, quella del padre. Sì, quella del padre. Sì, io non ho fatto nessun acquisto, non ho comprato una seconda casa. Voi che siete praticamente gli esperti, mi potete dire che cosa vuol dire uno che ha una casa così e gliela fanno pagare come seconda casa? Mi fanno pagare, voglio pagare anche, non essendo residente, voglio pagare anche il doppio delle bollette di elettricità, di gas, pago tutto. Sì, Raffaele. Grazie Raffaele. Allora riassumiamo la situazione di Raffaele, che poi può essere anche comune a molti ascoltatori, no? Uno eredita la casa a vita dei genitori. Sì. I requisiti perché la casa sia considerabile come prima sono quella che la casa si trovi nel comune dove si risiede o nel comune dove si esercita la propria attività lavorativa. Nessuno di questi due casi ricorre per il nostro ascoltatore, e quindi ereditando lui dovrà pagare le imposte di successione come se la casa fosse una casa diversa dalla prima abitazione. Lui non possiede una prima casa, perché il dubbio credo che veniva all'ascoltatore, può essere di molti. Lui non possiede una prima casa, ma non può dichiarare come prima casa quella perché che non risiede e non esercita la sua attività lavorativa in non comune c'è nessun, di Napoli. Nessun modo per ovviare a questa situazione, quindi che ne so, cedendola con un comodato ad un parente, ad un figlio, se stesse là, uno zio, un cugino. Questo riguarda l'IMU, cioè il problema se è l'abitazione principale. Può essere abitazione principale ai fini IMU anche una abitazione non acquistata come prima casa, i requisiti sono diversi. E l'unica possibilità per avere la prima casa su questa in questo caso sarebbe quella di obbligarsi a trasferire la residenza a Napoli entro 18 mesi dall'apertura della successione. Ma allora, uno poi si deve trasferire, non è però poi se c'è un programma. Certo. di trasferimento di abitazione, però Alassio non è proprio un brutto posto dove vivere. No, assolutamente, però, però il tema è che sul groppone, Napoli. Esatto, dovrà avere tutta la fiscalità sul groppone di una casa che non abiti e non vivi. Saverio, qual è tra l'altro la rosa della fiscalità che si applica su una proprietà di questo tipo? No, probabilmente mi pare aver capito però che l'ascoltatore abitasse, avesse comprato probabilmente ad come Alassio. Prima casa ad Alassio. Esatto. No, viveva in affitto, non, non aveva nessuno. Ah, viveva in affitto. Sì. Ah. E allora, probabilmente si riferiva però più all'IMU, al problema dell'IMU, cioè perché per lui immagino che trasferire la residenza ad Alassio e comprare una casa ad Alassio non sia necessariamente un problema, e quindi comprarla come abitazione principale, come prima casa, pardon, e tenendosi quella là ovviamente come seconda casa. Credo che in questo momento lui appunto abbia il problema che l'unica casa che possiede è il luogo in cui lui non risiede e non è la sua abitazione principale, è e così. Di conseguenza paga l'IMU, come diceva, molto elevata, e la TASI anche, e anche quella. Gli oneri di sistema, lui faceva accenno a queste tasse sull'elettricità impropriamente, sono in realtà gli oneri di sistema, sono tariffe, ne abbiamo parlato anche qui a due di denari, sono considerevolmente rincarati proprio per le seconde case. E se lui cedesse incomodato la casa di Napoli a un figlio che però deve poi risiedere o abitare lì, o il figlio o la moglie, adesso non lo so, il figlio, e l'IMU si riduce del 50%, quindi almeno questo potrebbe riuscire a alleggerire un po' il peso fiscale. Però su non ci sono proprietà. Le tariffe invece delle forniture di gas ed energia elettrica, e se sono differenziate come quasi sempre accade, quelle invece se le deve pagare inesorabilmente intere. Infatti è quello che dicevo, cioè chi ha una seconda casa o l'affitta, almeno ci ritorna dalle spese, ma se la tiene sfitta è un onere enorme per chi ha un normale stipendio, una normale pensione sui fra i 1000 e i 1500 euro. Sono dei bei dilemmi, insomma, sui quali ragionare con molta cura. Intanto guarda, che voi ragionate, intanto noi ci ragioniamo. Io faccio i compiti, va. Tu devi informarci su come stanno andando i mercati. Io ricordo agli ascoltatori che possono comunque scriverci, telefonarci anche mentre ascoltano la pubblicità e soprattutto le informazioni sull'andamento dei mercati, 800 24 0024, oppure 349-238-6666 se volete mandare sms e whatsapp. E adesso Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Ci riprovo, mi piace tanto farlo. Eccolo qua. Adesso faccio il giro intorno al tavolo. Grazie Debora, grazie. Volevo dire, ma evidentemente a Marco Lombardo piacciono molto i tocchi Nelson, oppure piacciono a Peter Bescapé che gestisce il tutto alla regia, perché anche gli avevo anche chiesto, per dire la verità, faccio questa piccola parentesi, se mi metteva salutate la capolista, perché per qualche ora... Salutate la capolista! Torniamo, allora, grazie Fossati Peter. E Roveda, voi vi rendete conto che momenti difficili che vivo io in diretta tutti i giorni? Guarda che il notaio invece è d'accordo con per me. Per fortuna che, che i bianconeri hanno un ottimo bilancio, almeno da quel punto di vista. È vero, l'ho letto oggi sul Sole 24 Ore. Certo, bravo. Allora, torniamo alla casa, torniamo sulla casa, perché ci sono parecchie domande. Non so, vuoi dare lettura di qualche sms, ma di qualche guarda, ce WhatsApp? Ne sono tante. Allora, c'è anche tutto l'universo mondo delle persone che provano a comprare casa all'asta, anche ieri abbiamo anticipato, meriterebbe una trasmissione a parte e la faremo, questo argomento, perché sicuramente questo è una modalità che si è resa molto più trasparente negli ultimi anni, ma che ancora genera molti interrogativi da parte delle persone. Soprattutto c'è chi prova a fare questo acquisto con le case che vanno all'asta intermediate dalle banche, che naturalmente le reperiscono da quelle che non vengono più rimborsate col mutuo, e quindi c'è anche questo mondo. Le due più grandi banche italiane si sono dotate di apposite agenzie che intermediano proprio queste abitazioni, ma magari ci dedicheremo una puntata a parte. Un ascoltatore ci raccontava di questo appartamento che aveva comprato a Bologna, dove era andato a lavorare, dopodiché ha perso il posto di lavoro, quindi per continuare a pagare il mutuo la casa l'ha messa in affitto, lui quindi adesso si è spostato e su questa abitazione ci paga l'IMU come seconda casa. Saverio Fossati, tu mi dicevi tutto regolare. Purtroppo sì, anzi non potrà più neanche detrarre gli interessi sul mutuo, perché ha smesso di essere la sua prima, la sua abitazione principale, quindi sventurato, e probabilmente guadagnerà. Siamo a Bologna, spero che abbia trovato uno studente che sia un po' in centro, altrimenti va più o meno in pari, insomma. Certo. Sentiamo Flavio da Treviso. Buongiorno Flavio. Buongiorno a voi, grazie di tutto. Una domanda veloce: mio figlio adesso ha intenzione di comprare una casa, che sarebbe la prima casa, però non ci va a abitare lui, ci andremo noi genitori. Sì. E pagherebbe la tassa di prima casa? Giriamo la domanda da Rigoro Veda. Sì, non è più requisito quello di andare ad abitare nella casa che si acquista. Uno può acquistare la prima casa e farla abitare da altri, o addirittura concederla in locazione. L'importante è che sia nel comune dove risiede o dove esercita la sua attività lavorativa. Grazie al notaio Roveda. Andiamo a Maria Rosa da Milano. Maria Rosa, buongiorno, un altro quesito per il notaio. Buongiorno, io ho due figli che abitano, hanno acquistato la casa insieme. Non è lo stesso comune dove mio figlio abita, perché è venuto a abitare con noi. Invece mia figlia abita nell'altro comune, nella casa di proprietà al 50%. Quest'anno mio figlio, praticamente è entrato in casa quest'anno, mio figlio ha pagato le tasse il 50% per intero. Se fa una dichiarazione di comodato d'uso gratuito alla sorella, può dimezzare le tasse? Notaio, allora, riepiloghiamo. Bisogna capire, la casa è già stata acquistata, quindi sì, la vicenda imposta di registro è chiusa. Stiamo parlando quindi di IMU. E allora, se c'è chi utilizza questa casa come abitazione principale ha diritto alle esenzioni, chi non la utilizza non ha diritto alle esenzioni, c'è sempre lo strumento comodato per ridurre questa quindi imposta. Quindi può farlo, perché l'ascoltatrice chiedeva proprio questo. Quindi... Sì, sempre che sia chi che abbia capito io bene la domanda, sì, che si riferisca a questa imposta. Per fare imposta. Il comodato bisogna venire a fare un atto dal notaio? Oppure... No. Può essere una normalissima scrittura tra privati. Sì, che suggerisco di registrare per dare una data certa. Però una formalità da espletare c'è, insomma, sì, registrare. Quella della registrazione, ma non è un atto notarile. Benissimo. Tra l'altro, per la domanda di prima, ecco, anche lì si può utilizzare il comodato. Cioè questi genitori che vanno ad abitare nella casa comprata dal figlio, il figlio potrà pagare l'IMU dimezzata se farà un contratto di comodato, come poi in effetti è effettivamente un comodato, un prestito gratuito, ai genitori stessi. Senz'altro gli conviene fare questa cosa, poi lo registra. Quanto costa adesso la registrazione del comodato? 200 euro di imposta fissa. Ecco qua. Allora, tra l'altro, mi piacerebbe sapere, Mauro, se sei d'accordo, visto che noi ci siamo tanto dedicati a lungo, dall'estate in avanti, alla legge sulla concorrenza, di cui tu ricordi tutti i termini e riferimenti legislativi. La legge 124. Esatto. Una norma con l'universo mondo, un solo articolo con l'universo mondo dentro. E ricorderanno molto bene gli ascoltatori quanta attenzione io e te abbiamo dedicato a quella importante novità che riguarda proprio gli atti di compravendita che si siglano ovviamente per portarsi a casa la casa dei propri sogni. La grande novità che è stata introdotta dalla legge di concorrenza è stata l'introduzione della possibilità, della facoltà da parte di un acquirente di una casa di chiedere al notaio di aprire un conto di deposito dove far transitare tutta la somma necessaria per chiudere l'operazione. Volevo sapere, notaio Roveda, se ci sono già delle persone che chiedono questa modalità di chiusura dell'operazione immobiliare, oppure se non c'è interesse, se vi siete trovati insomma ad aprire un sacco di conti correnti per effettuare queste operazioni o no? Il conto può essere unico e quindi c'è, e tutti i notai l'hanno già aperto, è un conto dedicato, impignorabile, dove, che non cade nell'eventuale successione del notaio con tutti gli scongiuri. E l'interesse è crescente naturalmente, le novità faticano sempre un po' a partire, iniziano dalle persone che leggono di più, magari o ascoltano la vostra trasmissione. E quindi le richieste i stanno iniziando ad arrivare. I venditori sono contenti perché magari rispetto ad un assegno circolare forse c'è un po' più di ritardo nell'arrivo della somma pattuita per la chiusura dell'operazione, no? Il tasso di resistenza di ogni individuo alle novità è sempre altissimo. I venditori non sono felicissimi, però quando gliela si spiega poi la digeriscono bene, anche perché banalmente... Se abitano in un altro posto non devono neanche fare la fatica di andare in banca a versare sul conto corrente, si trovano accreditato sul proprio conto un paio di giorni dopo, tre giorni dopo la somma. Perché questa norma, lo ricordiamo, nasce proprio a tutela in qualche modo dell'acquirente, perché così c'è la possibilità di verificare che non ci siano vizi e tutto quello che potrebbe mandare a monte l'affare, anche dolo qualche volta. Diciamo che c'è una piccolissima percentuale di rischio che riguarda il periodo tra la stipula dell'atto e una volta il pagamento del prezzo e la trascrizione dell'atto. C'è un tasso di contenzioso sugli atti notarili dello 0,03%, una frazione del quale è data da questi eventi. Però quando uno ci mette però il frutto di 20 anni... Però finire quello 0, virgola, poi dà fastidio. Esatto, sì, il problema è di chi ci finisce. E ci finisce per somme che costituiscono il risparmio di una vita. Esatto. Quindi vale la pena di utilizzare questo una strumento. Cautela in più. Che già in via facoltativa poteva essere ed era utilizzata anche prima della legge. La vera novità è che oggi non c'è bisogno dell'accordo delle parti per fare questo. Basta ma che è sufficiente chieda, una sola che chieda al notaio e il meccanismo automaticamente deve partire. Allora ci fermiamo ancora per qualche istante. A proposito di partenze. Esatto, a proposito di partenze, traffico. Due di denari. Take me back to my home, sweet home. Allora, non ce ne passano una, eh? Non appena intercettano un errorino che facciamo, guarda, ci fanno gli esami ogni e minuto. E fanno bene, esatto. Fanno bene a pretendere, perché allora esatto. Dobbiamo... Nel caso di Alassio Napoli... Dobbiamo ripercorrere insieme al notaio Arrigo Veda e al collega Saverio Fossati la questione di questo ascoltatore che ci ha chiamato. Lui vive ad Alassio ma in affitto, ha ereditato questa casa a Napoli e dice me la trattano come seconda casa. L'inquadramento è purtroppo per lui assolutamente non modificabile. Cosa succede ai finimu se ad esempio lui dà questa casa a suo figlio, a un parente? Ecco, prima avevo dimenticato un dettaglio importante, perché funziona il meccanismo del comodato al 50% di IMU, bisogna che sia il padre che il figlio abitino nello stesso comune, quindi se lui ha la residenza, l'aveva trasferita ufficialmente ad Alassio, purtroppo lo sconto non funziona. E quindi questa è, speriamo di essere stati chiari, insomma se avete naturalmente dubbi potete esatto. Sempre scriverci o telefonarci. Io vorrei ascoltare Mimosa che ci chiama da Roma. Con questo bel nome, Mimosa, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie. Primaverile, nonostante siamo in pieno autunno. Ci dica. E allora, una domanda. Io e il mio compagno abbiamo acquistato in momenti differenti due case e tutte e due quindi beneficiamo della prima casa. Ora abbiamo allargato la famiglia e dovremmo acquistare un'altra casa, ovviamente vendendo quelle che abbiamo. Certo. Mi chiedevo in questo caso quali sono i tempi, come funziona. Da quanto, per quanto siete stati proprietari reciprocamente delle vostre allora, reciproche abitazioni? Allora, il mio compagno per 4 anni, l'ha acquisita 4 anni fa e io 1 anno fa. Benissimo. Grazie Mimosa. Notaio, ci faccia testè una consulenza per la nostra Mimosa. Quindi vendono due case per comprarne una. Sì. Vale per tutte e due la regola che o vendono prima o si impegnano a vendere entro l'anno. La buona notizia è che possono sommare due crediti d'imposta, cioè dalle imposte che pagheranno sul terzo acquisto possono detrarre le imposte pagate nei due acquisti precedenti. Quindi possono anche rischiare di non pagare imposta di registro o di pagarla in misura molto ridotta. Mm-hmm. Su questo nuovo certo. Acquisto. Ma notaio, lei sta citando, lo ha fatto più volte stamattina, la fantomatica imposta di registro. Per chi è totalmente digiuno dalla materia e domani decide di mettersi alla ricerca della sua casa, la trova e deve andare appunto dal notaio per farsi fare un po' un ABC di tutte le imposte e le tasse che deve pagare su questa operazione. Il sistema è abbastanza semplice, però per chi non sa nulla, insomma, ci fa una fotografia degli adempimenti fiscali più importanti nella giornata del rogito. Nella giornata del rogito si devono versare al notaio le imposte dovute sul trasferimento. Quando un privato acquista da un privato o comunque da una società non costruttrice, l'imposta che si paga acquistando un'abitazione è l'imposta di registro, che viene calcolata nella misura del 2% per le prime case e del 9% per le case diverse dalla prima, seconda, terza, eccetera, non sul prezzo ma sul valore catastale, che in alcune città è molto minore del prezzo, in altre ci si avvicina un po' di più, ma tendenzialmente comunque è minore rispetto al corrispettivo pagato. E si paga solo l'imposta di registro? più qualche altra imposta minore, l'imposta ipotecaria catastale, 50 euro ciascuno, i diritti di trascrizione, però il grosso è l'imposta di registro. I professionisti e anche i notai quindi sono obbligati a fare un preventivo dettagliato per iscritto per la nuova legge sulla concorrenza, e quindi quando ci si accinge a comprare una casa ci si deve far fare dal notaio un preventivo dei costi totali, comprensivo di onorari e di imposte, in modo da poter fare un budget molto preciso sul fabbisogno finanziario. Mi ha fatto precisare questo aspetto, Mauro, perché molto spesso si pensa che il giorno in cui si va a stipulare l'atto di compravendita finale, il rogito al notaio, tutta questa somma che si deve versare è tutta parcella del notaio. Io purtroppo ancora mi confronto con persone che immaginano questa, è vero, perché questa noi circostanza in, quel in quella fase, poi specialmente se invece si acquista, non abbiamo fatto il caso, notaio, da un'impresa costruttrice, allora lì c'è l'IVA, perché l'IVA ti guarda, diciamo, sempre qui a due di denari. Sì, e rischia di essere ben superiore l'onere fiscale rispetto all'imposta di registro, perché l'IVA intanto è il 4% per la prima casa e non il 2%, ed è il 10% per la seconda e non il 9%, ma soprattutto la base imponibile è calcolata sul prezzo e non sul valore catastale. Quindi in questo momento il sistema è un po' iniquo e penalizza chi compra dal costruttore. Grazie. Vogliamo sentire Giacomo da Milano, che ha un quesito che immagino riguarda molti ascoltatori. Giacomo. Salve, buongiorno. Buongiorno. Io ho acquistato l'appartamento sotto al quale sotto a quello in cui vivo, e adesso vorrei fare una scala per unirlo sostanzialmente, certo. Diventerà un unico appartamento. Però l'ho acquistato con agevolazione prima casa, quindi pagando le tasse sostanzialmente ridotte. Volevo sapere intanto se è corretto e se ho una tempistica da rispettare per godere di queste agevolazioni. Certo. No, mi stupisce anche la domanda, è corretto quello che ho fatto, come se non si avesse avuta una consulenza preventiva che noi invece caldeggiamo e raccomandiamo sempre di chiedere ad un professionista. Notaio Roveda. La consulenza c'è stata ed è stata corretta, perché se gli hanno fatto acquistare come prima casa... Mi è venuto però il dubbio. La soluzione è corretta. Documento dell'Agenzia di Entrate, una circolare, dice anche che poi bisogna provvedere alla fusione catastale dei due appartamenti. L'unico dubbio, spero che non mettere in ambasce il nostro ascoltatore, è che per effetto della fusione catastale l'appartamento non diventi un appartamento di lusso, quindi che sia riclassificato in A1. Però questo non dovrebbe essere, Saverio. No, questo è fini IMU, cioè pagherà un sacco di IMU. Ma anche i fini dell'imposta di registro perde i requisiti prima casa se diventa A1. Però sono abbastanza rari, però chiederebbe i casi, un conguaglio in questo chiederebbe momento. Farebbe decadere certo. Però io guardo Saverio perché so che essere classificati in A1, insomma, bisogna avere un appartamento che non dico è un castello, ma vero, poco ci manca, un bel pregio, insomma, sì, sono cioè, molto pochi. Mi sembra che sia tutti quelli sopra i 200 metri quadrati, no? E, dipende dalla, ci sono una serie di requisiti, ma poi dipende sopra dallo stabile. I 200... lo stabile deve essere particolarmente attrezzato con servizi, che so, la piscina. Non fate quelli che sanno tutto di queste case, poi magari ci abitate e non mi avete detto niente. No, perché le case a uno sono circa, ma sono 2-3 mila in tutta Italia, sono pochissime. Quindi, detto questo, insomma, abbiamo dato queste indicazioni. Diciamo che purtroppo non sono mie. Sicuramente passerà di classe catastale pesantemente, forse anche di categoria, se la categoria catastale era bassa. Mm-hmm. Quindi l'IMU aumenterà parecchio. Essendo però lui, se la sua abitazione principale, la cosa in realtà non gli interessa, perché tanto l'IMU sull'abitazione principale non c'è. Stiamo andando verso la chiusura, gli ascoltatori che sono rimasti in attesa raccomandiamo di scriverci a duedidenari@radio24.it. Massimo deve comprare casa ma è divorziato, deve pagarla come seconda pur non avendola più, che fare, notaio, in 10 secondi, che dice? Se ha una proprietà di un'abitazione acquistata come prima casa, a meno che non ci siano degli accordi di attribuzione alla moglie della proprietà di questa casa, e allora meglio eseguirli prima, purtroppo è seconda. Certo. Mauro, che dici? Debora, abbiamo il momento, anche abbiamo chiuso la capolista. Ancora per qualche ora saremo la capolista. A proposito di immobili, non è pertinente questo argomento con la trasmissione.